Sì, io voglio cercare te, Gesù. Sì, io voglio adorarti di più, perché solo tu mi hai tanto amato da darti sulla croce per me. Voglio adorarti e ringraziarti con tutto il cuore, conoscerti di più, Gesù. Voglio fare il tuo voler, io voglio arrendermi al tuo amor, io voglio dare tutta la lode a te. Temerei mai.